Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. L'acqua mi risucchiava sotto e mi trascinava giù. Per fortuna il fiume in quel tratto non è molto profondo, quindi non appena mi trovavo con i piedi sul fondo, mi davo una spinta e risalivo in superficie per prendere aria. Sono Claudio, vivo a Fiume Veneto, in provincia di Pordenone. Sono un piccolo imprenditore che sta vivendo la crisi in questo momento e quindi sputando sangue per salvare la sua azienda. Mi occupo di vendita all'ingrosso di prodotti per l'informatica. Sono sposato e ho due figli adolescenti. C'è in ogni storia che arriva alla redazione del programma un tratto comune che non riuscivo a mettere a fuoco, perché è difficile capire che cosa unisca l'episodio di un amore finito con uno di sport, un racconto su un successo professionale con un altro che riguarda un nonno che non c'è più. Ed ecco che cos'è quel filo rosso. L'ho trovato. È la vulnerabilità. È la voglia di raccontare qualche cosa di sé con la possibilità che quella cosa possa aprire una piccola ferita o magari mostrare il fianco. E non sto parlando di continui smottamenti emotivi o di lacrime ad ogni racconto che arriva a questo programma. Parlo proprio di un bagliore di umanità, una sorta di piccola concessione privata che tutti quelli che hanno inviato le loro storie hanno regalato a noi che le leggevamo e a tutti quelli che ogni giorno alle 16 o in podcast ascoltano il programma. Perfino le storie meno sentimentali, quelle più leggere o divertenti, hanno sempre avuto in sé, anche solo per il fatto di essere state elaborate, di aver impegnato una piccola parte del tempo di chi le ha scritte, un'intimità priva di imbarazzo e di esibizionismo. Sono le 16:10 minuti in punto, buongiorno a tutti, questa è Radio 24 in diretta da Milano, io sono Matteo Caccia, il programma e voi siete qui. Queste parole che vi ho letto sono tratte dall'introduzione, dalle prime pagine dell'ebook di questa stagione di programma, di Voi siete qui, che è online da ieri, dall'altro ieri, da pochissimi giorni e che potete scaricarvi gratuitamente per avere sempre con voi, magari per tutta l'estate sul vostro tablet, 97 delle storie che sono arrivate a questo programma, che abbiamo mandato in onda. Se dovessimo fare un ebook con le storie arrivate avremmo bisogno di un'enciclopedia e anche probabilmente per fare un ebook con tutte le storie che arrivano ogni anno, sono troppe, sono circa che raccontiamo ogni anno. Noi raccontiamo tutti gli anni circa 210-215 storie, ne abbiamo selezionate un centinaio, per l'esattezza 97, e le abbiamo raccolte in questo ebook. È il terzo che facciamo, ogni stagione ne abbiamo fatto uno e quest'anno ovviamente non ce lo siamo fatti mancare. Potete scaricarlo passando da un sacco di posti, dal nostro profilo Facebook, ovviamente Voi siete qui, Radio 24, altrimenti da Ultima Books, che insomma è la piattaforma di Semplicissimus che ha fatto l'ebook anche quest'anno, oppure da iTunes, oppure da Google Play, oppure da Amazon. È gratis, lo scaricate in un click e ve lo tenete con voi. Se invece avete voglia di scrivere delle storie e di mandarcela, sempre Voi siete qui @radio24.it. In particolar modo per il mese di luglio stiamo ancora raccogliendo delle storie a tema, delle storie di viaggio. Se avete una storia legata a un viaggio che avete fatto a cui tenete particolarmente, mandatecela, ma anche delle storie di avventura. Se avete vissuto in qualche modo avventure o disavventure che avete voglia di raccontare, Voi siete qui @radio24.it. Noi le prendiamo, vi chiamiamo e ci facciamo una puntata, esattamente quello che facciamo oggi. Beh, ad esempio la storia di oggi, la storia che raccontiamo di Claudio, potrebbe essere una storia di avventura, perché è più una disavventura probabilmente, però comunque ha a che fare con l'essere bambini, col fare una cosa che probabilmente non potresti fare e con qualcosa che va storto. Poi fortunatamente lui è qui, ce lo racconta e quindi tutto si raddrizza, però ecco, una storia come questa potrebbe essere una bella storia di avventura. Mettetevi comodi oppure aprite il computer e cominciate a scrivere. Questa è la storia di Claudio. Io adesso ho 51 anni, sono sposato, ho due figli adolescenti e abito da sempre a Fiume Veneto. Fiume, come lo chiamiamo familiarmente noi fiumani, è un paese normalissimo nel nord-est, ma con la particolarità del suo nome legato all'acqua. Il paese si chiama Fiume ed è attraversato da un piccolo fiume che si chiama anch'esso Fiume, che fantasia. E pensate che a 3 km dalle rive del fiume, sempre nel nostro territorio comunale, scorre un secondo fiume che si chiama Sile. E Sile in antica lingua di origine celtica, significa fiume. O comunque ha sempre a che fare con l'acqua. Tutto nel nostro paese ruota da sempre attorno all'acqua, dalla vita normale alle attività produttive. E tutti noi fiumani abbiamo, forse avevamo, sempre avuto un rapporto particolare, molto intimo, con il nostro fiume fiume. Io e i miei amici da giovani non eravamo esenti dal fascino dell'acqua. Facevo la seconda o terza media e insieme ad una banda di 5-6 amici eravamo avvezzi a fare il bagno nel fiume. Ma ero un ragazzo abbastanza tranquillo, frequentavo molto la parrocchia del mio paese, anche se come la gran parte dei giovani della mia età avevo in testa la voglia di cambiare il mondo e quindi in qualche modo mi buttavo nelle avventure, mi buttavo nel volontariato e cercavo di dare il mio per migliorare il mondo in cui vivo. Una delle tante volte che questo accadeva era un mercoledì che a scuola non si faceva il tempo pieno. Ho avuto l'avventura di avvicinarmi troppo ad un punto del fiume dove confluiva il canale di scarico della centrale elettrica del cotonificio, che si trova in centro al paese. In quel punto le acque del fiume, in genere molto tranquille, si trasformano in impetuose e ricche di vortici. Chiaramente mi sono fatto risucchiare da un vortice che in un attimo mi ha trascinato sotto. In quel momento, non so se per il panico o per la forza stessa dell'acqua, non sono più riuscito a rimettermi in posizione orizzontale e a nuotare normalmente. L'acqua mi risucchiava sotto e mi trascinava giù lungo il corso del fiume, mentre io annaspavo e tentavo di uscire dalla sua presa. Per fortuna il fiume non è molto profondo, almeno non in quel tratto, e quindi non appena mi trovavo con i piedi sul fondo, mi davo una spinta e risalivo in superficie per prendere aria. Salvo poi essere immediatamente risucchiato e quindi panico di nuovo. La cosa si è ripetuta per parecchie volte, non so quante, ma a ripensarci mi sembrano un'infinità, sicuramente 7, 8, se non di più. Nel frattempo la corrente mi ha trascinato a valle di parecchie decine di metri, forse anche un centinaio. Sì, ero al posto sbagliato nel momento sbagliato. Nel frattempo, i miei amici risaliti a riva si sono accorti che ero in difficoltà e hanno iniziato a rincorrermi lungo le rive. Io, quando risalivo in superficie, con la coda dell'occhio riuscivo a vederli che correvano, però vista la situazione credo che si sentissero impotenti. Io avevo con me una maschera da subacqueo che mi aveva prestato Silvano, uno di loro, e a un certo punto, mentre ero sott'acqua, la maschera mi dava fastidio, quindi l'ho tolta. Ma siccome l'avevo in prestito, mai e poi mai l'avrei potuta lasciare lì nell'acqua. E quindi, pur nella foga del momento, ho ben pensato di infilarmi la maschera su per il braccio, fin quasi alla spalla. Silvano si sarebbe arrabbiato se gliel'avessi persa. Seppi poi che, nel momento in cui mi sono tolto la maschera, l'aria contenuta era fuoriuscita facendo delle bolle. E i miei amici, vedendo quelle bolle risalire da sole, si sono detti: vabbè, questo è andato. Fortunatamente non era così. E io ho continuato a salire e scendere tra il fondo e la superficie ancora per un po'. E mi ricordo che nel frattempo mi passavano davanti agli occhi i miei genitori e un po' tutti i familiari. In quel momento ero veramente molto spaventato. Il ricordo che ho adesso è che in un attimo mi sono passati davanti agli occhi i miei familiari e anche molti dei miei parenti. Avevo paura sia per la mia incolumità, ma anche di quello che avrebbero potuto poi pensare loro dell'avventura che stavo vivendo. Su una delle rive c'era un pescatore, un giovane anche lui, di nome Mauro, che non si era reso bene conto di cosa stava accadendo. Come lo ha visto, Silvano si è catapultato su di lui, gli ha sottratto la canna da pesca e in un attimo me l'ha tirata in acqua. Io, come ho visto la canna vicino a me, mi sono subito aggrappato. Ho smesso di fare il saliscendi e in poco tempo ero a riva. Pescato con la canna da pesca da Silvano. La persona giusta, al posto giusto, nel momento giusto. Lui sì. Chiaramente, appena uscito e ripresomi un po', dissi a tutti di non fare parola di quanto era successo, perché temevo che i miei mi avrebbero gonfiato di botte. della serie sopravvive all'annegamento e muore ammazzato di botte. È chiaro che esageravo nelle mie paure. Infatti, la domenica, rientro a casa da messa e mi trovo la famiglia sulla soglia di casa. Non sto qui a raccontarvi le mazzate. Riempito di ceffoni, ma non per il rischio corso, bensì per avere taciuto la cosa. I miei mi sgridarono perché anche loro alla stessa messa erano venuti a conoscenza della cosa da altri. Cioè, ti chiedono se è vero che tuo figlio stava per annegare e tu non ne sai niente, cadi dalle nuvole e non vedi l'ora di svicolare dagli importuni per venirtene a casa e gonfiarlo di ceffoni così impara. Ed eccomi lì, a sentire la ramanzina e prendere ceffoni di punizione. Di nuovo la persona sbagliata nel posto sbagliato, al momento sbagliato. O forse no. Forse davvero in quel momento era la persona giusta al posto giusto, perché sa solo Dio e i miei genitori quanto quei ceffoni mi siano serviti. Oggi purtroppo Silvano non c'è più. Pochi anni fa un cancro se l'è preso e non c'è stata nessuna canna da pesca a cui aggrapparsi. Gli altri amici, fuorché uno, abitano ancora a Fiume, così come Mauro, il pescatore che ho incontrato qualche tempo fa. E ricordando quella volta, mi ha confidato che a casa ha ancora quella canna da pesca. Tutte le altre le ha vendute o rottamate, ma quella no, quella non se l'è sentita. Mi sono ripromesso di andarlo a trovare e toccarla ancora una volta. Se non era per lei e per Silvano, non sarei qui a raccontarvi questa storia. I wish I was a fisherman, tumbling on the sea, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet life with abandonment and love. No ceiling bearing down on me, save the starry sky above with light in my head. È seduto a un banchetto da lavoro e fa qualcosa di estremamente artigianale Claudio nella foto. Ha anche su una sorta di tonaca. Non capisco se è un hobby o seppure è tipo un orafo. Pronto Claudio? Ciao Matteo. Ciao, buongiorno. Ciao. Cosa stai facendo in questa foto con una tonaca, una tunica addosso? Io e mia moglie partecipiamo a delle rievocazioni storiche. Rievochiamo come mercanti, rievochiamo un po' il laboratorio del 1200, sì. Ah, ok, che è della zona vostra, è di Fiume? Ma mia moglie sì, è della mia zona. Le rievocazioni le facciamo un po' tutta Italia. Ah, quindi insomma rievocate pezzi di storia italiana più che di Fiume in generale. Sì, in quella foto lì siamo in Francia addirittura, siamo a Biot, un paesino in Francia. Ma c'è un'associazione che organizza queste cose? Ci sono dei gruppi di persone? Sì, ci sono diversi gruppi che organizzano queste cose, poi fondamentalmente ci sono associazioni che organizzano le manifestazioni. Okay. Noi facciamo parte di un piccolo gruppo che rievoca il 1200, oppure in altre occasioni si rievocano un po' le storie longobarde, visto che i longobardi sono un po' il fulcro qui della nostra zona. Chiaro. Senti, invece il fulcro un po' della tua vita rimane questa canna da pesca. Quando alla fine della storia sono arrivato e ho letto che questa canna da pesca esisteva ancora, mi sono domandato come tu non l'abbia potuto prendergliela e metterla in una teca in casa tua. Ma guarda, ci ho pensato mille volte che poi non l'ho mai fatto. Non è detto che non lo faccia prima o poi, tanto Mauro lo conosco, ci si vede ogni tanto, ci si vedeva anche insieme con Silvano, quindi era modo per poterci riraccontare quell'avventura passata insieme. Infatti scusami, questa cosa volevo chiederti, perché queste sono proprio le storie che ci si racconta e ci si riracconta, cioè quante volte l'avete, poi ognuno ci aveva la sua versione immagino. Sì, sì, ci sono le versioni che differenziavano un po', io ti ho raccontato la mia. Oh, beh, ovvio. Cosa c'era di diverso nelle altre? Guarda, sinceramente sono così focalizzato sulla mia che non mi ricordo neanche molto, ma qualcuno dice che non era Mauro addirittura che aveva la canna, ma che l'aveva qualcun altro, ma Mauro mi conferma che ce l'aveva lui. Ce l'aveva lui sta canna. Sì, poi nel tempo sai, ognuno ci aggiunge qualcosina, ci toglie qualcosa. Però è stata un po' una storia fondante del vostro gruppo, no? Cioè ci sono quelle storie che fortificano l'essere amici, che sono la sbronza che hai preso quella volta, la volta in cui quello ti ha rubato la fidanzata, o insomma, e questa immagino fosse una di quelle storie lì, no? Cioè che voi eravate anche quella cosa lì, anche questa storia. Sì, lo è stato decisamente per almeno una decina d'anni. Poi dopo, sai, la vita ti porta anche a vivere esperienze diverse e a non vederti più così assiduamente. Certo. Poi ci siamo ritrovati quando un po' tutti abbiamo cominciato ad avere figli, quindi in asilo o alla scuola, ed era modo per potersi poi dare appuntamento, andare a bersi una birra insieme e riraccontarci questa storia o la pizza di classe. Certo, cose, certo, cose, certo. Così. Senti Claudio, prima dicevi che sei un imprenditore di quelle che sta lottando, che cosa fai esattamente? Ma io tratto prodotti di consumo per l'informatica, cartucce di inchiostro, toner, sia compatibili che originali. Ok. E quanto e come si sente, si percepisce la difficoltà del momento? Ma allora, di fatto io credo che nel mio settore non si dovrebbe neanche sentirla troppo, perché trattando soprattutto prodotti compatibili la gente, pur di risparmiare, dovrebbe acquistarle un po' di più. Il problema è che facendo io un lavoro prettamente commerciale, importo, quindi acquisto in Estremo Oriente, quindi anticipo i soldi per l'acquisto e poi qui pagano un po' a babbo morto, se pagano. Sì, se pagano. Sì, sì. Però il problema non è tanto quello, il problema è che dal 2007 in poi non ho più avuto supporto da parte delle banche. Cioè mi hanno sistematicamente pian piano ridotto gli affidamenti proprio nel momento in cui invece io ne avevo più bisogno e lì mi ha messo in ginocchio. Ma quindi hai dei dipendenti o è una cosa riesci a far da te? Ne avevo sei e adesso non ce n'è più neanche uno. Ah ok, è proprio, insomma, sei proprio una delle storie che raccontano meglio purtroppo questo momento. Ma diciamo, i progetti per il futuro sono di tenere duro, di cambiare, di fare altre cose? No, non ce la faccio a tenere duro, cioè sinceramente proprio le banche mi stanno aggredendo da tutti i punti di vista, io credo di avere anche la casa a rischio. In questo momento sto continuando a fare questo lavoro anche perché ho del magazzino da smaltire. Da smaltire. Però sto facendo anche altri lavori, sono rientrato da 15 giorni dalla Norvegia dove ho insieme con una squadra di italiani abbiamo smontato una macchina enorme che poi si spera andrà rimontata in Medio Oriente, quindi sì, ho capito, fai di tutto, chiarissimo. Sì, mi sto un po' barcamenando. Claudio, guarda, ti faccio davvero gli in bocca al lupo più grandi e posso dirti che tra 5 minuti inizia Oscar Giannino e secondo me lui qualcosa di buono ce l'ha sempre in serbo per chi... Più di me, per chi è in difficoltà, ne sa sicuramente di più. Però ti ringrazio davvero per la storia, Claudio, grazie ancora. Grazie a te per l'opportunità. Ciao, in bocca al lupo. Ciao, grazie. Prima di chiudere, io volevo tornare con la memoria a una storia che abbiamo raccontato un paio d'anni fa. Era la storia, e adesso capirete anche il perché, era la storia di una ragazzina che si chiama Fatima, che soffre di una malattia molto molto rara, che è un problema della pelle, che non ti permette di vivere alla luce del sole. Avevamo anche parlato con Fatima che vive a Cogne, se non ricordo male, in Piemonte. Si chiama xeroderma pigmentoso questa malattia e questi bambini, in un modo anche fintamente romantico, vengono definiti bambini della luna perché vivono di notte sostanzialmente, perché la luce del sole gli crea dei problemi. Io insomma conosco questa storia piuttosto bene anche per altri motivi. Vi racconto di nuovo questa storia perché Fatima era stata protagonista di un film che era uscito un paio d'anni fa, era uscito solo in inglese ed era stato fatto girare in giro per l'Europa e in giro per il mondo, e questa sera esattamente esce in Italia, oggi giovedì 19 giugno. Il film si chiama The Dark Side of the Sun, il regista si chiama Carlo Hinterman ed è un ragazzo molto molto in gamba che ha fatto un film straordinario. Esce nelle sale italiane ed è anche doppiato in italiano, quindi ve lo potete godere tranquillamente. Ed è la storia, tra gli altri ragazzi, anche di Fatima, che passano un'estate in un campo negli Stati Uniti che è creato per loro, per cui vivono più di notte che di giorno e fanno delle attività particolari. È un film magnifico perché racconta non di una malattia, ma di un pezzo della vita delle persone, che attraverso, purtroppo, il filtro di questa malattia sono obbligate a vivere la vita in un certo modo, ma vi assicuro che è un film ben fatto, ben girato e con delle storie magnifiche. The Dark Side of the Sun, se riuscite andate a vederlo, cercatelo, è in giro in Italia, sicuramente lo trovate. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, vi ricordo che giovedì prossimo c'è live, noi siamo sempre qui fino a fine luglio, Tiziano Bonini, Margherita Ina, Pietro Lacorte, mandate le vostre storie, voi siete qui, @radio24.it, grazie a Claudio perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Giuseppe, ho 36 anni, vivo a Groningen in Olanda e la storia di domani è la mia e parla di un viaggio a Malta in Vespa. Questa è la mia storia e io sono qui.